FM. Tie Your Mother Down, questi erano i Queen e tu credo che avessi il microfono acceso, cara Claudia. Non ci quindi credo. Quindi vabbè, comunque. E quindi si è sentito quello che ho detto? Ma può darsi, non lo so, ditemelo voi, ditecelo naturalmente. Cosa ho detto? Non lo so, hai detto niente di particolare, insomma, credo tu abbia detto semplicemente il diavolo. Ah, ok. Credo, insomma. Spero. Vabbè, anche perché fuori onda, lasciamo stare. Allora, io ho dato la disponibilità per i miei fuori onda, però se non li sistemi, certo. No, li sistemeremo, li metteremo naturalmente. Sono leggermente da bippare. Sì, un attimino sì, vabbè. Allora, vediamo un po' di messaggi che giungono all'interazione di Rock FM. Un saluto anche a Shandy che giustamente mi consiglia per la data del 9 di febbraio di non fare partitelle a calcetto. 9 febbraio? 9. Ciao. Ciao. No, il 9 maggio di non fare partitelle a calcetto, visto che insomma due settimane fa ho preso quella botta enorme e insomma almeno. Tra l'altro, giustamente la preoccupazione più grande di Edo qual è stata? Non i gioielli di famiglia. Esatto. No, è corso a casa e ho detto, ho preso la chitarra. Ah, ok, ce la faccio. Tra l'altro vi confesso che sul palco di Russi ho cercato di, come dire, smorzare o quantomeno mascherare le mie smorfie di dolore con delle smorfie di rock and roll, perché insomma qualche volta la chitarra mi ci picchiava sopra e non è stato. Poi sai, sei le lì, voci sei, bianche, sei lì, di sei russi. Preso. Esatto, esatto. Quando abbiamo armonizzato Rock and Roll All Night, abbiamo fatto l'inizio a cappella e l'hai sentita un po' tua quella canzone. No, ho fatto la parte altissima, veramente. Neanche Paul Stanley è mai riuscito ad arrivare così alto. Vabbè. Un saluto, Paul Stanley. Un saluto anche a Roby da Caravaggio, che dice: come siete belli quando siete online insieme. Oh, oh. Bella, bella, bella, bella, Claudia. Ciao, amico. Poi vediamo un po' altri SMS. Dunque, Emanuele da Monza dice: vi ascolto da un anno, con voi ho fatto mille scoperte di nuove canzoni e titoli sconosciuti di bellissime musiche. Non potete chiudere. Hai ragione, guarda, non dirla a noi. Poi un saluto anche a Colin, evviva la Rock Family, quindi ancora una volta ricordiamo la nostra comunità online www.rockfamily.it. noi siamo cresce tutti la famiglia, lì. Cresce la famiglia, noi siamo molto molto felici. Esatto, ci sono un sacco di iscritti e speriamo anche che gli iscritti siano poi attivi, in modo che ci si possa così interagisce un sacco, ci si diverte una cifra. Esatto, e ve lo io dico, io non ero mai così. Esatto. Io ai tempi lo stavo per dire, guarda, Claudia è una che sui forum eccetera invece... io andavo poco, anche esatto, perché ero limitata tecnicamente. No, ma anche con l'italiano, insomma, alla sì, fine certo, non sapevo. Un sacco di limiti. Però devo dire che su questo forum mi diverto un sacco, perché si scrivono un sacco di cazzate, ma nel senso buono, sì. Si scherza, si ride, si parla anche di cose infatti, serie. È un po' il bar, insomma, alla fine. Sì. Infatti c'è il pub della Rock Family, c'è uno dei dei thread, diciamo, è proprio questo qua dove si discute. Io ogni tanto do un po' i numeri da Ariete Impulsiva, quale io sono. Oddio, Ariete Impulsiva. Oh, mamma. E gli ascoltatori. Parliamo di segni musicali, mamma mia. Edo Rossi oggi è fuori di testa, va bene. No, dicevo, parliamo un po' di segni zodiacali. Di nuovo. Ce la fai? Segni zodiacali, sì, sì. No, io ho avuto una fidanzata. Non ho mai avuto fidanzate Ariete. Edo, metti un disco, ti prego, perché stai dicendo. Sei dislessico? Sì, un pochino sì. Che c'è? Cosa c'è? Ancora la botta che gli fa male? No, no, è forse un po' di stanchezza, sai com'è. Ma i gioielli di famiglia? No, i gioielli per fortuna. No, per fortuna quelli. No, per fortuna. Le biglie stanno bene. Allora sì, le mie biglie, per fortuna, non facevano male. Però appena presa la botta, sì. Perché la botta non è stata quali presa. Quali sono state le prime parole che hai detto dopo? Allora, le prime parole che ho detto non le ho dette, perché mi faceva talmente male tutto che mi sono sdraiato al suolo e... Un po' tipo Ronaldo, no? Sì, sì, no, che Ronaldo, no, io no. Ronaldo cosa c'entra? Mi hai mai visto con un trans? Allora voglio dire, guarda, in dopo passato una partita, sì. Ma va, eri tu che hanno detto cacchio, cedo con un trans, invece era Claudia che giravo con te, porca miseria, per i locali. Grazie. Senti, poi allora un saluto anche a Leonardo. Sono Leonardo, ho 3 anni, volevo salutare, ecco Claudia che impazzisce, volevo salutare Edo e i miei coetanei che erano a Russi. Ho provato a salire sul palco quando Ariele ha incominciato a suonare, ho passato le transenne ma mi hanno fermato, sono di Forlì, il mio babbo Lambert mi porterà a vedere i Jethro Tull a Sogliano, ci vediamo, bene, complimenti, bene, tre fai anni, bene. Però scrive già gli sms, eh già, vedi com'è bravo, tu pensa che avendone 25 ancora fai fatica. 24, scusa. Poi, allora, sempre a proposito di Jethro Tull, scusate, c'è Mike che dice: bella intervista, ragazzi, si riferisce a quella fatta poco fa con Mike Cafferty. Mike Hedfun. Sì, che dice: bella intervista, mi chiedo se avete in programma anche di ospitare un altro scozzese con 40 anni di carriera alle spalle. Sì, come... Garavelli, domani. No, come, non è scozzese, Garavelli. Però ha 40 anni di carriera alle spalle. Beh, lì, Ian Anderson dei Jethro Tull, non lo so, se vi... anche perché tra l'altro è in Italia alla fine di maggio, se non sbaglio. A proposito di interviste, sì, io ieri ho intervistato Candice Night, sì, per il progetto Blackmore's, okay, Night. Bene, ok. La moglie... Intervista che sentirete prossimamente. Ma lei è la numero uno. Ma va? La pluriodiata Candice Night, la moglie di Richard Blackmore, colei odiata? Odiata perché pare abbia un po' rincoglionito il marito e gli abbia fatto mollare la chitarra elettrica, insomma, questa era un po'. Quello. Ma io ti posso dire che A è di una simpatia estrema. Bene. È di una dolcezza incredibile quella ragazza, ah, va, ed è bellissima, e sì, poi a quanto pare come la da lei non la dà nessuno. No, scusate, no, no. Questi commenti veramente da esatto, maschio, esatto. No, e tra l'altro casualmente durante l'intervista è passato prima Max, poi Ariele, che avevano casualmente lasciato delle penne proprio in quel studio. Com'è? E sono dovuti passare a raccattarle. Sì, stranissima questa cosa. Ma non succede mai nei nostri studi, eh? Ora non so se con Pelù qualcuno si è dimenticato, per esempio, delle penne. No, prima che portassi via mezza radio. Grande Piero, un saluto grande grandissimo. Grande Piero!

che bei momenti mi hai regalato durante l'intervista con Chris Cornell. Scusa, ma la facciamo? Io faccio i cori in questa. Sì. Dicevi che bei momenti ti ho regalato? Durante l'intervista con Chris Cornell. Baby, te li ricordi, eh? È stato bello. Quando hai spaccato il registratore, idiota. Vabbè, succede. Fa parte. No, non succede. No, non succede. Ma no, ma non è stata in realtà colpa mia. Il minidisc ha scontrato e si è staccata la spina. Staccandosi la spina si è cancellato, no, certo, tutto. Voglio non dire... l'avevi appoggiato sulle ginocchia, ti sei alzato e bam, è caduto. Avevo Chris Cornell, no, appoggiato sulle ginocchia, lo sapevo. Era sulle mie ginocchia. Mamma. Senti, beh, simpatico Chris Cornell, eh? Bellino. No. Forse beh, perché aveva fatto il butulino due giorni prima dell'intervista. Allora, quindi, dicevo, si va a sorridere, però, ragazzi. Beh, però io ho iniziato con una domanda di quelle che, sì, sei, che sei amico. Sì, subito. Subito. Eh? Ma allora. Cos'è successo con gli Audioslip? No, poi, sei uno, ti fa le raccomandazioni, mi raccomando. Allora adesso intervistate Chris Cornell. Però ho basta, capito. Audioslave. Ma ho capito, ma non puoi subito fare la domanda, sì, da stronzo all'inizio. La fai alla fine, magari se entri in confidenza, ma con perché l'artista. Sai, io di solito sono abituato che prima sto antipatico e poi pizza e fichi. Quindi non volevo diventare simpatico subito. No, tu stai antipatico subito e poi lo resti. Sì. Esatto, no, non è vero. Allora, non so se ricordi, ma tu gli hai fatto la domanda degli Audioslave e lui ha guardato in cagnesco com'è. Esatto, perché ha capito che me l'avevi suggerita tu. E io ero lì in un angolo. Avevi la tipica faccia di quella che ha detto, digliela tu. Io ero lì, guardavo, Edo incredulo ha detto, non può aver chiesto questa cosa. Poi Chris Cornell mi guarda con una faccia come per dire, ma va, sti due stronzi, mannaggia. Vabbè, comunque voglio dire, no. E io così, sì, però il classico sorrisino. Sì, però. Scherza il mio collega, no, eh. Però, ora, è vero, giusto, però, voglio dire, dal momento che è inutile che non vuoi sentir parlare degli audio quando poi alla sera sali sul palco e fai tre quarti di pezzi degli Audioslave, per cortesia. Certo, però inizi magari facendo un po' il ruffiano, facendo un po' il piacione, dai, Edo, riesco, ti viene molto. Non riesco a essere né ruffiano né piacione. Ma piantala, tu sei il ruffiano per eccellenza. Non è vero, io sono duro e puro. Allora, un saluto a Massi da Forlì che ancora ci fa delle, dice delle belle parole per Russi, grazie mille Massi. Poi un saluto all'autista, no, la tua cartolina non l'ho ancora vista, mi dispiace. Poi fatevi prego un in bocca al lupo al GBP Basket, oggi in campo per la salvezza. Ciao Filippo che resiste con voi, siete grandi. E in bocca dei al lupo, maschioni, ragazzi. Su, forza e coraggio. Se vincete vi mandiamo la Claudia nello spogliatoio per un'ora. Pallacanestro? Sì. Vabbè, guarda, ci vado molto volentieri. Allè, fatta, andata. Alti, benissimo. Sono alti, almeno. Ma lo sai, io metto piccino, tutto bellino. Vabbè, poi un saluto. Un saluto a invece Lorenz da Imola che dice: ciao Claudia, Edo, ero a Russia e da chitarrista ho notato che hai delle movenze da Zakk Wylde, o sbaglio? Ma così un po' delle movenze, ci sta che magari mi muovo come i miei idoli, no? Un pochino, ogni tanto. Non ha detto suoni come Zakk Wylde, che questo sarebbe stato impossibile. Però mi hanno anche detto che ho delle pose da vecchio bluesman navigato. Edo, ma questa gente ti prende in giro e tu, sì, ancora già, ci credi? E io un po' ci credo. È come, sì, quando mi dicono che assomiglio, che ne so, a qualche attrice. A una figa, poi in generale. Sì. Ad una bella ragazza in generale, io dico che carino, grazie. Poi mi dicono, guarda che sto scherzando. No, Edo. Bene, intanto. Non vorrei stroncare la tua carriera, ma. Intanto quello che conta è rock and roll, non mi interessa di finire sulle prime pagine dei giornali scandalistici. No, infatti non sei l'unico che posta le sue foto sui blog e non fa altro che scaricare le sue foto. No, vabbè, è vero, io te le non foto interessa. Le voglio io, cioè per me, per vedere. Certo, le vuoi per te, per farle vedere agli altri. Ma no, ma ne ha. Vabbè, perché cambiamo argomento. Allora, un saluto a chi scrive come fidanzata a Retina mi propongo io, caro Edo. È già, bene, fidanzato? No, però effettivamente io ad Arezzo la bandierina non ce l'ho, quindi va benissimo. Sto scherzando, dai, poi come minimo è un uomo, cioè non si è neanche firmato. Ricorda poi che la tua fidanzata è una delle mie più care amiche. Ed è una delle persone migliori al mondo. Assolutamente. Quindi, quindi stai molto attento. Certo, ma si scherza, lo sa anche lei. Poi, allora, Claudia, segnati il mio numero, hai 24 anni, sei la donna della mia vita, non posso dire chi sono, solo la reputazione. Chi è? Io non lo so, se hai capito tu, Guarda qua, abbiamo parlato prima di Maurizio Faulisi, hai visto? Abbiamo parlato prima di lui, abbiamo messo parli Elvis e arriva. Spunta, aspetta che... Buongiorno Maurizio, buongiorno. Faulisi con il suo ciuffo. Maurizio, reduce da Radio Popolare, sì, è stato bellissimo oggi, vero? Bellissimo. Ci siamo divertiti. No, io ho potuto sentire un po'. Eravamo un po' seriosi all'inizio, poi piano piano... È scattata l'ignoranza. Cioè, hai visto, noi parliamo di una persona, questa persona arriva. Esatto. Parliamo di Dave Gunn. No, dice, parliamo di una persona e spunta, dice, parliamo di Dave Gunn adesso. Dave Gunn, Brad Pitt. Grazie Maurizio, con lui l'appuntamento è stasera naturalmente dopo le 11, poi vediamo altri messaggi, andiamo veloci che così li leggiamo tutti. Un saluto a Dago, che dice, ma sì, sarà un po' come le rockstar che dopo la morte diventano leggende. Bene, io tocco e rido. Poi un saluto a Giulia Rocker da Forlì che dice, già detto svariate volte, voi due assieme spaccate. Cosa? Vabbè, il 25 maggio è il mio compleanno, se il 24 vengo a Gello voglio almeno gli auguri. Ma te li faccio personalmente, Forlì, ecco, anche a Forlì mi manca la bandierina. Dai! Poi un saluto anche, diciamo, ma che storia, Cla, Edo a quest'ora, un bacione Claudia, Marius e il Claudia Fan Club. Vedi, hai tu visto? Hai il fan club. Io il mio fan club. Porca quattro miseria. Persone, ma eccezionali. Io c'ho l'Edo Fan Cool invece che è un gruppo di... Va bene. Meno male che vi fanno chiudere, milanesi di merda, South We'll Rise Again. Ok, l'ho voluto leggere perché era talmente grazie, ridicolo come messaggio. Anche che noi ti stimiamo leggere. Parecchio. Esatto. E okay. La diarrea fulminante te la stiamo augurando in questo momento. Poi viva il Sud, ieri c'erano quei Sud Sound System, voglio dire, quanto non hai capito una cippa. Poi un saluto anche a Filo da Dozza che chiude il messaggio subito. Voglio leggere questa parte perché ti interessa. Dice, Claudia, sei stupenda. E poi dice: scherzo. La serata. No. No, perché poi dice: la serata Russia è stata fantastica. Sembra finale... un pazza qua. No, non ok, grande, no, perché poi si riferisce a una cosa che gli ho scritto io. Grazie mille Filo, un abbraccione, un saluto anche alla grandissima Bice da Zena che dice, ma a Genova una serata del tour, no, è vero, ci dispiace ma non siamo riusciti a farla, mi spiace davvero. Ma non siete ancora in tempo, no, okay. Abbiamo più tempo. Poi un saluto ancora alla Poiana invece che dice, qualcuno sa se a Pino Scotto corre una donnina brava che faccia le pulizie e igienizzi il bagno? Secondo me sì. Mi sa che vado in Viale Zara stanotte, comunque ho imparato a fare... Ah no, Viale Zara è mia, eh. Vabbè, vi fate un altro lampione, insomma, mi mettete d'accordo. Dice, comunque ho imparato a fare il tofu con l'erba cipollina ed il burro d'arachidi. Che buono! Mamma mia, solo che dice, da quando avete annunciato la fine di Rock FM è scesa una maledizione, oppure perso il lavoro. Prendete il furgone e andiamo in pellegrinaggio all'isola di Barbana a Grado. Mamma mia, va bene. Oiana, in bocca al lupo, siamo tutti nella stessa barca. Sì. Va bene, ci sentiamo ancora i Von Bondis? No, non abbiamo tempo. Ok, non ci sentiamo i Von Bondis e vi ringrazio, vi saluto, forse ci sentiamo domani, c'è un po' da fare, non so se riesco a esserci, però sicuramente ci sarà la nostra sexiest Claudia dalle 12 alle 14, sempre qui dalla linea diretta dalla Rock Family che per adesso continuiamo a chiamare Rock FM. Grazie Claudia per l'intervista, un grazie bacio. Grazie a te, Edo. Un abbraccio e una leccatina te la do dopo. Ci sentiamo domani. Buona serata.